facile guardarsi appena e scivolare via, ma la mano mia cade nella tua e col fatto che si resta amici, com'è giusto che sia, scarto l'idea di domandare a te senza di me cosa si fa nei pomeriggi troppo blu. Senza me chi sarà a darti un bacio di più? Sarebbe inutile parlare ancora dei problemi miei, li conosci e sai che mi arrabbierei. Così mi chiedi se ho mangiato o no, che bambino sei, non cambi mai, perché non dici che senza di me la vita sa di fumo e di malinconia. Senza me libertà e il nome d'una bugia. Senza di me cosa ci fai dentro a quel letto immenso? Senza di me, senza i sorrisi che tu mescolavi al mio caffè, e come sta la pianta che io ho lasciato senza dirle addio? E la gente mi chiede mai perché non ci sono, che senza di te.